Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Coronavirus, i contagi in Italia salgono a 370, 12 le vittime, quasi 10.000 i tamponi effettuati dalle autorità sanitarie. Prenotazioni cancellate per l'Italia, ristoranti vuoti per la FIPE, ci sono 20.000 posti a rischio e un danno da 2 miliardi. Di Maio annuncia 350 milioni per sostenere le esportazioni italiane. Il treno deragliato a Lodi dovrebbe riprendere il 2 marzo la circolazione sulla linea alta velocità Milano-Bologna. Scontro agli Uffizi per il prestito di un Raffaello a Roma. Si dimette Tommaso Montanari dal comitato scientifico dopo la decisione del direttore degli Uffizi, Heike Schmidt. Buongiorno Alessio Maurizio dalla redazione, dunque ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24 e cominciamo, come avete appena sentito dai titoli, da un nuovo aggiornamento con gli ultimi dati, gli ultimi numeri, le ultime analisi per quanto riguarda la situazione del coronavirus in Italia. C'è stato poco fa la conferenza stampa consueta di mezzogiorno del commissario per l'emergenza Borrelli e allora ci racconta tutto Alessandro Arona. Ciao Alessandro. Sì Alessio, buongiorno, siamo qua alla sede nazionale della Protezione Civile. Come dicevi, aumentano ancora i casi, questo è il primo dato, e il secondo dato è una nuova persona deceduta, è un anziano di 69 anni di Lodi, che però è morto in Emilia-Romagna, ricoverato all'ospedale di Parma. Anche lui è stato spiegato, come tutti i casi precedenti, aveva delle precedenti gravi patologie pregresse, e fra l'altro Borrelli ha spiegato che è proprio in corso uno studio da parte dell'Istituto Superiore di Sanità per capire meglio il legame tra queste morti, diciamo, di pazienti con precedenti tipologie e il coronavirus, cioè capire se sono morti davvero a causa del coronavirus oppure no. Comunque, tornando ai dati, sono complessivamente 374 i contagiati e quindi abbiamo un aumento di 91 persone in più rispetto a 24 ore fa, rispetto alle 12 di ieri. 374 casi in più, sono sempre in gran parte in Lombardia, sono diventati 258, ieri erano 212, ieri alle 12. Sono 71 in Veneto, 28 in più rispetto a ieri sera, però erano 38 alle 12 di ieri. Poi sono 30 in Emilia Romagna e invece sono stabili nelle altre regioni, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 2 in Toscana, 3 in Sicilia, una in più in Liguria, sono diventate 2, una sempre in provincia di Bolzano e una in più nelle Marche. Ecco, il dato però è che la gran parte di questi nuovi casi sono persone in quarantena a casa senza sintomi, sono 209, quindi non hanno sintomi, stanno bene. Poi 116 sono invece ricoverati con lievi sintomi e invece sono soltanto 36 quelli in terapia intensiva, quindi diciamo i pazienti gravi sono aumentati di poco, erano ieri 29, sono diventati 36. Purtroppo in conferenza stampa non hanno risposto a domande, le domande che avremmo voluto fare sono i 7 casi di minori contagiati, sì, che è l'altra novità di oggi, purtroppo non hanno risposto a questa domanda, e l'altra domanda è se questi nuovi casi di contagio sono legati ai focolai oppure no. Ieri Borrelli aveva escluso che i nuovi casi di ieri, cioè aveva detto erano sempre legati ai focolai, cioè persone che venivano da Codogno o da Vo' Euganeo o che erano passati, sì. Oggi questa certezza non ci è stata data. So che hai comunque raccolto una voce. C'è una voce di Franco Locatelli, Presidente, sì, del Consiglio Superiore di Sanità. Sentiamolo. La larghissima parte di questi tamponi, diciamo più del 95%, ha dato esito negativo. Il rischio di contagiosità è elevato nei soggetti sintomatici o paucisintomatici, mentre è marcatamente più basso nei soggetti asintomatici. E grazie dunque ad Alessandro Arona per questo primo aggiornamento sui numeri del contagio del coronavirus in Italia. Il contagio che si estende fuori dall'Italia, in Europa, ma non solo, perché nuovi casi di coronavirus sono stati confermati non solo in Spagna, in Svizzera, in Austria, ma anche in Grecia e in Algeria, e sembrano quasi tutti essere legati all'Italia. Il governo giapponese prosegue nella fase di preparazione dei Giochi Olimpici di Tokyo. Il nostro lavoro è concentrato sull'organizzazione dell'evento con molta serenità, ha dichiarato il ministro dello sport Seiko Hashimoto, dopo che si erano diffuse notizie di un rinvio dei giochi a causa del coronavirus. Ad essere posticipati, ha sottolineato il premier giapponese Shinzo Abe, saranno invece i grandi eventi legati alle Olimpiadi previsti nelle prossime due settimane. Washington, intanto, ha modificato le avvertenze per i cittadini americani che viaggiano all'estero, mettendo l'Italia a livello 2 in una scala di 4. Si può viaggiare nel nostro paese, aumentando però le precauzioni per i focolai di Covid-19. Nessun blocco dai paesi vicini. La Germania non intende sconsigliare i viaggi in Nord Italia, afferma il ministro degli esteri tedesco. Lo si fa, sottolinea, quando sussiste un pericolo di vita, e non è questo il caso. Nessun blocco di voli dai per l'Italia, neanche da parte di Londra. Sarebbe una misura controproducente, fa sapere il ministro della salute inglese Matt Hancock, limitandosi a confermare alla BBC le indicazioni sull'autoisolamento per chi arriva nel regno dal Nord Italia e il consiglio di evitare i viaggi negli 11 comuni in lockdown. La tensione tuttavia resta alta. Francia, Spagna, Grecia, Turchia, Irlanda, Russia e Croazia sconsigliano ai loro cittadini di compiere vacanze o viaggi in Italia, specie nel nord. Nel mondo, a vietare il nostro ingresso, sono per ora Giordania, El Salvador, Mauricio, Turkmenistan, Kuwait e Seychelles. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto a livello globale i casi complessivi fino ad oggi registrati sono 81.259, di cui 2.770 vittime, 33.087 le persone che sono state curate e guarite. I casi attualmente attivi, dunque, sono poco più di 48.000. Si tratta di un dato particolarmente importante perché in leggera diminuzione il caso di contagi attivi in questo momento da coronavirus. E poco fa l'OMS ha fatto sapere che i nuovi contagi che si sono registrati sono superiori fuori dalla Cina che non all'interno della Cina. E però, per quanto riguarda invece l'Italia e la Lombardia, come avete sentito dalla conferenza stampa del commissario per l'emergenza Borrelli, ci sono anche i primi casi di contagi tra i bambini. Sono tutti in buone condizioni, 4 bambini risultati positivi al coronavirus in Lombardia. Si tratta di una bambina di 4 anni, 2 di 10 e 1 di 15. Sono tutti originari della zona rossa e solo 2 sono ricoverati, la prima al San Matteo di Pavia, un altro all'ospedale di Seriate in provincia di Bergamo. L'infezione nei bambini è possibile, ma molto più leggera, confermano i dati. Così l'assessore al welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, alla Sette. Ha un effetto molto più grave e compromettente nei confronti delle persone anziane che hanno già delle pregresse patologie. Ricordiamo che il 50% lo vive in maniera addirittura sintomatica, cioè non se ne accorge neanche. Questa è la fotografia del famoso focolaio di Codogno che sta emergendo con sempre maggiore nitidezza e peculiarità, nulla di più. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tema scuole chiuse invece, perché è una delle questioni che interessa maggiormente le famiglie nelle regioni dove da lunedì è attivo il blocco della didattica. Ne ha parlato questa mattina ai microfoni di 24 Mattina Lucia Azzolina, ministro dell'istruzione. Ha detto: non c'è intanto alcun rischio che gli studenti perdano l'anno scolastico per il mancato raggiungimento dei giorni necessari di scuola in un anno, appunto. E poi ha preso dei blocchi, ha detto Azzolina, dalla settimana prossima potrebbero essere decisi su base provinciale. Sentiamo. Posso rassicurare sia i genitori sia i nostri studenti, non c'è assolutamente alcun rischio che i nostri studenti perdano l'anno. Uno, perché abbiamo una normativa salda, nel senso che al ricorrere di situazioni imprevedibili è fatta salva la validità dell'anno scolastico. Sappiamo che il testo unico, l'articolo 74,3, ci parla dei 200 giorni, ma se ci sono situazioni imprevedibili l'anno è salvo. Noi stiamo lavorando con una task force da giorni al Ministero dell'Istruzione per garantire ai nostri studenti la didattica a distanza. Se le misure che noi abbiamo posto in essere avranno, come speriamo, degli effetti celeri, immediati, io penso che se in questo momento abbiamo una chiusura regionale delle scuole, dalla prossima settimana si potrà iniziare a pensare eventualmente di avere una chiusura provinciale, cioè più legata a delle zone dove ci sono dei focolai. E siamo invece al capitolo delle ripercussioni economiche, perché Per ora prevale la linea del rinvio di tutta una serie di attività e di manifestazioni, come per esempio il Salone del Mobile, che da aprile è slittato a giugno. Oggi il ministro degli esteri Di Maio ha annunciato 350 milioni di stanziamenti per sostenere le esportazioni del Made in Italy, ma i guai si vedono anche all'interno del paese, soprattutto al nord. L'economia globale è a rischio recessione se il coronavirus, che ha già messo a dura prova l'economia cinese, dovesse trasformarsi da epidemia in pandemia. A lanciare l'allarme l'agenzia Moody's, che in un report considera verosimilmente alte le probabilità di un rischio pandemia. Probabilità in aumento, secondo l'agenzia, con il crescere dei contagi in Europa e Asia. Moody's taglia così dello 0,4% la crescita globale del 2020. L'impatto sull'economia mondiale si verificherà in vari modi, spiega l'agenzia. Molto penalizzato sarà il settore viaggi e turismo. E in Italia i primi effetti si fanno già sentire. Le stime per i prossimi mesi non sono rosee, spiega a 24 Mattino il vicepresidente della FIPE, Aldo Cursano. Noi con il nostro centro studi, proprio partendo da questi primi due mesi in prospettiva del primo quadrimestre, abbiamo monitorato 2 miliardi di euro di fatturato in meno, con un rischio occupazionale di 20.000 unità. Le borse intanto restano nervose, intimorite dalla possibilità che l'espandersi del coronavirus possa toccare zone finora risparmiate, come gli Stati Uniti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La cronaca adesso dovrebbe riprendere. Il 2 marzo la circolazione sulla linea dell'alta velocità tra Milano e Bologna è interrotta dal 6 febbraio, quando un Frecciarossa è deragliato a Ospedaletto Lodigiano. Questa è la previsione effettuata dai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana dopo il dissequestro delle diverse componenti dell'infrastruttura da parte dell'autorità. E siamo quasi in chiusura. Una notizia che riguarda il svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo. Il governo giapponese prosegue nelle fasi di preparazione dei giochi olimpici, malgrado l'allarme coronavirus. Il nostro lavoro è concentrato sull'organizzazione dell'evento con molta serenità, ha detto il ministro dello sport incaricato per le Olimpiadi nel corso di una audizione parlamentare, dopo che invece qualche ora fa si era diffusa la notizia che invece ci fosse un possibile ripensamento. 13 e 12 minuti, Effetto Giorno fa una pausa, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Andremo in collegamento con la Cina, dove c'è un italiano appena rientrato in Cina e dovrà fare la quarantena, perché nel poco più di una settimana le parti si sono rovesciate. E poi invece vi racconteremo anche il caso del quadro degli Uffizi che doveva essere prestato e sarà prestato alle scuderie del Quirinale per una mostra su Raffaello. Hanno litigato il comitato scientifico guidato da Tommaso Montanari e il direttore degli Uffizi Heike Schmidt. Questo tra poco nella seconda parte di Effetto Giorno. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno per commentare tutte le notizie di oggi. A tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus, i contagi in Italia salgono a 374, 12 le vittime, quasi 10.000 i tamponi effettuati dalle autorità sanitarie. Il numero dei contagi fuori dalla Cina, intanto, fa sapere l'OMS, supera quelli che ci sono stati in Cina. Prenotazioni cancellate per l'Italia, ristoranti vuoti, secondo la FIPE ci sono 20.000 posti a rischio. Di Maio annuncia 350 milioni di investimenti per sostenere l'export italiano. Il treno deragliato a Lodi dovrebbe riprendere il 2 marzo la circolazione sulla linea ad alta velocità tra Milano e Bologna. Scontro agli Uffizi per il prestito di un Raffaello a Roma. Si dimette Tommaso Montanari del comitato scientifico dopo la decisione del direttore Heike Schmidt. 13 e 15 minuti, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. Adesso, come annunciato, andremo tra un attimo in Cina per sentire il racconto di un italiano che è appena rientrato lì. Prima però voglio darvi un'altra notizia che riguarda sempre la questione del contagio da coronavirus nel nostro paese, ed è il caso dell'ospedale di Codogno, che era stato tra ieri l'altro e ieri, ricorderete, al centro del botta e risposta tra il Presidente del Consiglio Conte e il Governatore della Lombardia Fontana. La Procura ha aperto una inchiesta e oggi sono anche arrivati i carabinieri dei NAS. Il punto, sembrerebbe, a quello che scrivono alcuni giornali, è per esempio il Corriere della Sera, sono le 36 ore che sono trascorse tra il ricovero notturno del paziente 1, il 38enne, ricorderete che aveva problemi respiratori, gravi problemi respiratori, e il momento in cui poi è stato fatto il tampone. Soltanto in un secondo momento, ricorderete, perché la moglie aveva detto solo a quel punto che era stato in contatto con una persona rientrata dalla Cina. Però, secondo quanto risulterebbe, ci sono delle linee guida che invece stabilivano che bisognava intervenire anche in casi sospetti, anche senza, diciamo, una dichiarazione di connessione con la Cina. L'altra questione che la Procura deve indagare è che, a quanto pare, anche una volta rilevata la presenza di coronavirus nell'ospedale di Codogno, c'è stato un contagio successivamente con degli anestesisti, quindi ci sarebbe stata una fatalità o una mancanza di precauzioni. È con noi, però, dicevamo, Gabriele Battaglia, giornalista corrispondente da Pechino della Radio Televisione Svizzera. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, anzi buonasera da Pechino. Buonasera da Pechino, esattamente. Gabriele, tu sei appena rientrato in Cina, perché fai un po' in su e in giù tra l'Italia e la Cina, se ho capito bene, e appena sei arrivato hai fatto la scoperta, insomma, sei stato, diciamo, ti sei fatto vivo tu, però poi ti hanno confermato che devi fare la quarantena. In una settimana le parti si sono rovesciate. Tu fai la quarantena solo perché vieni dall'Italia, giusto? Assolutamente sì, è abbastanza paradossale, e poi credo di essere probabilmente uno dei primissimi casi, perché oggi Pechino ha proprio annunciato che sì, tutti coloro che arrivano da aree interessate, colpite dall'epidemia di coronavirus, devono farsi i 14 giorni di quarantena. Era successo già ieri a un gruppo che era arrivato dalla Corea del Sud, e l'Italia, che adesso invece ha numeri molto alti, appunto a livello quasi della Corea del Sud, è chiaramente da oggi è praticamente interessata da questo problema. Chi te l'ha comunicato, Gabriele? Come sei venuto a sapere? Me l'ha comunicato il mio condominio, perché questo è un altro elemento che va raccontato, perché quando arrivi all'aeroporto di Pechino tu passi attraverso tutta una serie di controlli, ma non succede nulla. Sì. E poi è quando arrivi nel tuo, chiamiamolo così, compound perimetrato, che ci sono tutti i controlli, che decidono il da farsi. E quindi è lasciato molto alla discrezione poi di questi funzionari che sono lì sul posto. Una discrezione, però, scusami Gabriele, una discrezione però che, a quanto pare, poi riesce ad arrivare al punto, perché tu ti sei autodenunciato all'arrivo al condominio o ti hanno beccato, tra virgolette, loro? Mi hanno beccato loro, nel senso che qui si conoscono tutti, si conoscono poi anche gli stranieri, soprattutto sì, che vivono qua. Io sono arrivato, loro semplicemente, siccome c'è un blocco all'ingresso, ti fanno lasciare giù il documento, ti fanno lasciare giù tutti i tuoi dati e ti dicono: beh, tra un po' ti telefoniamo e ti diciamo un po' che cosa ne sarà di te. E io ho aspettato questa telefonata, dopo un paio di ore è arrivata e mi confermava in effetti che avrei dovuto mettermi in quarantena per 2 settimane, che io ho ribattuto che c'era un'ordinanza della municipalità di Pechino che diceva che, fino a ieri almeno, sì, che tutti gli stranieri che sono stati qua più di 14 giorni fuori dalla Cina non dovevano sottoporsi a quarantena. Ma oggi le regole sono cambiate. E io sono capitato qui oggi. E sei uno dei primi. Gabriele Battaglia, senti, tu sei appunto a Pechino. Pechino dista, credo, parecchio da Wuhan, credo più di 1000 chilometri. Ti chiedo intanto però qual è l'atmosfera che hai trovato rientrando. Adesso credo che ti puoi limitare ad un'analisi, diciamo, delle televisioni, dalle televisioni, perché se dovrai fare la quarantena non so quanto ti sarà consentito di uscire di casa. Qual è l'atmosfera in Cina? Perché i numeri dicono che i nuovi contagi sono intanto di più, l'ha detto poco fa l'OMS, quelli all'estero, fuori dalla Cina, che non in Cina. E poi in Cina sembra che il contagio sia stato controllato, ci sia un numero di guariti che supera i nuovi contagi, e quindi una situazione fondamentalmente che appare sotto controllo. È così? Allora, indubbiamente l'impressione è che la gente ormai viva come una nuova normalità questa situazione, quindi sono tutti molto calmi, molto tranquilli, tutti sanno quello che devono fare, ripeto, sono stati anche molto gentili con me oggi, quindi è proprio una nuova normalità. Certo è strano, perché io sono partito il 1 febbraio per tornare in Italia e la situazione era già un po' così, no? La città deserta, una città post-apocalittica e così via. Adesso sembra che sia diventato proprio la nuova normalità. E fa impressione il fatto che Pechino, noi siamo abituati a una città di 24 milioni di abitanti, frenetica, e adesso invece è una città assolutamente sgombra, le strade sono sgombre, i negozi sono, i supermercati sono piuttosto agevoli, tutti con la mascherina, tutti veramente, insomma è un po' una situazione così. Senti Gabriele, una curiosità, i media in Cina, quanto, io mi riferisco in particolare credo alle televisioni, forse saranno le più seguite, o ai giornali, alle radio, quanto spazio dedicano alle notizie sul coronavirus in Cina e all'estero? Ah beh, no, lo dedicano, lo dicono, ne parlano, anche perché, come dire, è una specie di servizio pubblico, quindi c'è un'informazione abbastanza capillare, ma non è solamente dei media, è anche solamente di tutti quei dispositivi da cellulare, da smartphone, tutte le app che danno informazioni in tempo reale, con le quali si può interagire per avere informazioni e così via. Quindi no, è molto molto presente. Preoccupano le ricadute economiche, l'ultima cosa, cioè c'è uno spazio fra le notizie anche a questo tema che noi sentiamo molto, sarà che la crescita dell'economia italiana ed europea era bassa, piatta, quella italiana addirittura già in un'area di recessione, la Cina probabilmente assorbirà meglio questo calo che ci sarà, è un tema di preoccupazione? Sì, assolutamente, cominciano a parlarne. Ci sono anche dei convegni che cominciano di economisti che si chiedono che cosa sarà domani. Bisogna capire poi la Cina, dove sì, arriverà quasi sicuramente, c'è consenso nel ritenere che arriverà un pacchetto di stimoli, no? Ma quello del 2008, quello ai tempi della recessione globale, andò soprattutto nelle costruzioni e nelle infrastrutture. C'è molta curiosità per vedere dove andranno questi sostegni. Grazie intanto a te Gabriele Battaglia, grazie per essere stato con noi. 13:23 minuti, cambiamo argomento, alleggeriamo con la storia di un quadro di Raffaello che è diventato agli Uffizi il quadro della discordia tra Heike Schmidt e Tommaso Montanari. A pochi giorni dall'inaugurazione della mostra per i 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio alle Scuderie del Quirinale di Roma, prevista per il 5 marzo nonostante i timori sul coronavirus, è scontro su una delle opere garantite all'esposizione capitolina dagli Uffizi. La polemica che ha portato alle dimissioni in blocco del Comitato Scientifico del Museo Fiorentino riguarda il prestito del ritratto di Leone X, uno dei papi che fecero la fortuna del genio Urbinate, inserito nella lista delle 23 opere inamovibili per il carattere fortemente identitario. Tommaso Montanari, membro dimissionario del Comitato Scientifico degli Uffizi. Noi crediamo che si debbano rispettare le regole. Il museo aveva stabilito nel Consiglio Scientifico, ma con l'accordo del direttore, che ci sarebbe stato un nucleo inviolabile, cioè di opere non prestabili. Esiste in tutti i musei del mondo. Il Louvre non presta la Gioconda e altre opere cruciali. Sono 23, pochissime rispetto alle decine di migliaia degli Uffizi. Dopo lunghe discussioni abbiamo stabilito quella lista insieme a ottobre, quindi non decenni fa. Alla prima occasione un'occasione in cui uno sponsor ha chiesto fortemente di portare il quadro ad una mostra, il direttore degli Uffizi ha ritenuto di dover violare quella regola che ci eravamo liberamente dati. Noi crediamo che sia un errore, cioè crediamo che il governo del patrimonio culturale debba essere fondato sulle regole e non debba essere fondato sugli interessi privati. Il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, rivendica da parte sua la decisione perché la grande mostra su Raffaello non poteva, a suo parere, fare a meno di questo significativo capolavoro, per di più in ottima salute dopo il restauro dell'opificio delle pietre dure di Firenze, e che già fu prestato pochi anni fa sempre alle scuderie del Quirinale di Roma per un'altra mostra. Eike Schmidt. Siamo veramente orgogliosi, io personalmente lo sono, di questo prestito. Il comitato scientifico si era irrigidito su una questione piuttosto di natura burocratica. Qui abbiamo un'iniziativa, un grande evento nazionale di portata internazionale. Infatti già oltre 70.000 persone hanno prenotato di venire da tutto il mondo a vedere questa mostra più grande mai dedicata a Raffaello. Direi che quel comitato specifico era estremamente politicizzato, si era insediato proprio a giugno scorso nella piena crisi di governo. Si capisce molto bene che tutta la polemica è stata montata. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alle 13:26 minuti salutiamo, diamo il buongiorno a un collega, Lucio Musolino, giornalista, collaboratore del Fatto Quotidiano. Ciao Lucio. Buongiorno. Ben ritrovato. Allora Lucio, con te vogliamo riprendere un attimino in mano quella notizia che è uscita ieri sui giornali di oggi. Tu gli dedichi un ampio articolo oggi sul Fatto, che forse travolti dalle notizie sul coronavirus non siamo riusciti a dargli l'attenzione che meritava. Sono passate un po' di ore, si sa qualche cosa in più. Parlo di questa operazione contro l'Andrangheta in Calabria, che ha portato a 65 ordinanze nei confronti di altrettanti esponenti dei clan, ma all'interno ci sono anche due nomi importanti. Un consigliere regionale appena eletto alle elezioni del 26 gennaio scorso, che si tratta di Domenico Creazzo, ma anche un parlamentare di Forza Italia, Marco Siclari. Creazzo è di Fratelli d'Italia. Chi sono questi due protagonisti? Perché diciamo è importante questa inchiesta? Allora, questa inchiesta è importante perché a distanza di meno di un mese dalle elezioni regionali in Calabria, che sicuramente in Italia hanno suscitato meno attenzione rispetto alle regionali in Emilia, fotografano quello che è successo e fotografano il rapporto tra l'Andrangheta e la politica. Un rapporto che sui giornali noi denunciamo sempre, che le inchieste della DDA per l'ennesima volta hanno dimostrato esistere. Il sindaco di Sant'Eufemia, Domenico Creazzo, era vicino fino a poco tempo fa al centro-sinistra. Sì, poi transitato, è certo. Passato, e dalle intercettazioni emerge che per lui non era importante il partito con cui candidarsi. E c'è anche, scusami se ti interrompo, una figura di collegamento che è il fratello di Creazzo. Che è il fratello di Creazzo, il quale è entrato in contatto con soggetti legati, secondo la DDA, alla Coscalvaro, e che hanno fatto da tramite per far ottenere al fratello sindaco di Sant'Eufemia il supporto elettorale. Tant'è vero che ha raddoppiato quasi i voti ricevuti 4-5 anni fa. Ora, Fratelli d'Italia, 8.033 voti. Fratelli d'Italia sicuramente era come dire, era prevedibile che avesse un buon risultato, perché è in un trend positivo dal punto di vista elettorale, e forse le cosche anche per questo poi si sono avvicinate per sfruttare questa situazione. Ci hanno forse messo anche del loro. Stiamo parlando di ipotesi presunte, di presunte accuse, naturalmente, perché siamo ancora in una fase di totale presunzione. Però ci sono delle intercettazioni che confermano questo sospetto. A me quello che ha sorpreso, Lucio, ti faccio questa domanda, è la merce di scambio che le cosche chiedevano ai politici. In un caso si tratta addirittura del trasferimento di un dipendente delle poste. Questo è il caso del senatore Siclari. Sì. Il senatore Siclari e il sindaco Creazzo sono entrati in contatto, chi attraverso il fratello per quanto riguarda Creazzo, chi attraverso un medico per quanto riguarda il senatore Siclari, e per lui il problema sono state, la vicenda riguarda le elezioni politiche del 2018, è stato Domenico. Ti riferisci a Laurendi, sì. Che era un soggetto legato. Ritenuto legato il capo di una di queste cosche. Ritenuto il capo dell'Andrangheta a Santofemia, uno dei capi dell'Andrangheta a Santofemia, collegato con la cosca Albano. Lui, dopo l'elezione del senatore Sigleri, attraverso il medico con cui che ha fatto da tramite, ha chiesto il trasferimento della figlia di un altro affiliato, sempre presunto affiliato, sì. Dalla sede del Nord Italia fino a Messina per avvicinarsi a casa. Detto fatto, dopo due mesi dalle elezioni regionali, la procedura era fatta e lei nel giro di qualche mese è stata trasferita. Addirittura è stato creato un posto ad hoc a Messina per la figlia dell'affiliato. No, colpisce Lucio Musolino, colpisce, io ti ringrazio naturalmente per questo preciso... C'è un problema sì. Anche che politico, al di là dell'aspetto giudiziario, sì. Perché ora il Parlamento dovrà decidere se utilizzare l'arresto del senatore Sigleri. Il sindaco di Santofemia è già agli arresti, sì. Domiciliari. Però noi abbiamo assistito nelle ultime settimane, per esempio, alla neopresidente della regione, Iole Sanzelli, sì. Che ha nominato in giunta capitano ultimo, che ha nominato come assessore una bravissima scienziata, Sandra Savaglio, e che però ora deve fare i conti anche con questi voti ottenuti dalla 'Ndrangheta. Staremo a vedere. Lucio, io ti ringrazio, abbiamo esaurito lo spazio, il tempo a disposizione per questa intervista. Io ti ringrazio comunque soprattutto per l'articolo puntuale dal punto di vista della cronaca giudiziaria, perché poi ci sono gli aspetti politici a cui tu ti stavi riferendo. Vedremo, c'è tempo per fare quelle valutazioni, però giusto per concludere, quello che stavo dicendo è che colpisce anche come dire, che questo sodalizio politico mafioso poi si concretizzi nel trasferimento di una figlia di qualcuno interessato da una sede all'altra delle poste. Ma naturalmente poi le ipotesi di reato sono ancora più complesse e staremo a vedere. Grazie ancora a Lucio Musolino. 13:32 minuti, andiamo in break, ci sono le informazioni di borsa e poi torniamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus, i contagi in Italia salgono a 374, 12 le vittime, quasi 10.000 i tamponi effettuati dalle autorità sanitarie. Conte dice sono inaccettabili le limitazioni nei confronti degli italiani all'estero. Intanto tra prenotazioni cancellate e ristoranti vuoti ci sono 20.000 posti di lavoro a rischio, secondo la FIPE. Di Maio promette 350 milioni per sostenere l'export. Olimpiadi 2020, il comitato ribadisce ancora una volta, l'evento è confermato, lavoriamo con serenità. Scontro agli Uffizi per il prestito di un Raffaello a Roma, si dimette Tommaso Montanari dal comitato scientifico dopo la decisione del direttore Heike Schmidt. Minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati, i vostri messaggi al 349-238-6666, anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Allora, velocemente, c'è chi se la prende perché diamo decine di minuti alle inchieste contro la destra, alle inchieste del PD, lasciate pochi minuti, dice un ascoltatore. Lasciaci il beneficio del dubbio, quando ci sarà un'inchiesta che riguarda un consigliere regionale del Partito Democratico all'estato con un'accusa pesante come questa, collusione con l'Andrangheta e voto di scambio, misuriamo i minuti che dedicheremo a quell'argomento. Così come l'ascoltatore dice, ma perché dite solo che è di Forza Italia? Abbiamo detto anche che l'altro, che è di Fratelli d'Italia, forse il nome Italia ha confuso. Poi ci sono tanti messaggi sul coronavirus, salto perché non abbiamo tanto tempo, è il momento invece di fare il punto, ahimè, sulla piega economica che sta prendendo questa situazione per quanto riguarda soprattutto il nostro paese. A questo è dedicato il punto del vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. Il coronavirus ormai mette a rischio l'economia quasi più di quanto non metta a rischio la salute. Non sembri cinico, ma le conseguenze sui settori colpiti direttamente o meno dalla diffusione dell'epidemia rischiano di creare una glaciazione per ogni attività, anche perché l'elemento della valutazione irrazionale e dell'incertezza rischia di prevalere e di fare danni enormi. Stanno crollando gli incassi di bar e ristoranti, dei luoghi della cultura e di aggregazione, saltano le prenotazioni per viaggi e alberghi, saltano le fiere dove il meglio della manifattura italiana viene conosciuta e apprezzata dai compratori di tutto il mondo. Si fermano le fabbriche e non potranno farlo molto a lungo. L'Italia scopre lo smart working da remoto, ma non è per tutti. Le borse sono in calo e questo fa fare un salto di gravità alla crisi. Se scoppiano le bolle finanziarie, le conseguenze di un blocco dell'economia globale diventa esponenziale e i danni per l'economia e per l'Italia saranno ben superiori allo 0,2% del PIL, come finora ha quantificato prudentemente la Banca d'Italia. La risposta da dare in questo caso è un colpo d'ala per la riscossa e stavolta forse anche l'Europa ci darà lo spazio di manovra nei conti pubblici. Certo, dobbiamo saperne approfittare. Minuti, di nuovo buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati, siamo in diretta con Effetto Giorno, cerchiamo di andare oltre le notizie sul coronavirus anche in questo caso e adesso vi voglio leggere un titolo di qualche giorno fa di un giornale che diceva: la storica pista di Sestriere, usata anche per le Olimpiadi, chiude per il cambiamento climatico, non c'è più neve. La realtà sembrerebbe invece forse diversa, anche se forse non troppo diversa da quello che è scritto in questo titolo, insomma ce ne parlerà e ci spiegherà tutto Giovanni Brasso, che è presidente di Sestriere SPA, che gestisce la famosa pista del Sises. Buongiorno Brasso, benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, parliamo di una pista che per chi frequenta quelle zone di montagna era già chiusa al pubblico, però adesso è chiusa anche, però era usata per grandi eventi sportivi, per atleti esperti, però adesso sembra che sia chiusa anche per questo tipo di manifestazioni, è così? No. Non ci ho capito niente. Allora, me lo dica lei com'è. Direi che è così, come esattamente come è scritto nel titolo dell'articolo che lei ha citato, un po' diverso di come invece è stato riportato nell'articolo medesimo. Quella sicuramente è una pista importante e prestigiosa per Sestriere, però siccome evidentemente, come tutti sappiamo e come tutti sanno, le condizioni meteorologiche sono cambiate molto, nevica meno, c'è più vento. La particolare esposizione di quella pista, che è proprio soggetta ai venti da tutte le direzioni, rende praticamente impossibile mantenerla in esercizio con i dovuti coefficienti di sicurezza. Ecco, però ci spieghi un attimo, scusi, perché io per esempio non ci sono mai stato, non conosco questa pista, non sono mai stato al Sestriere, me lo conceda, così come credo anche a tanti altri ascoltatori. Questa pista era già chiusa al pubblico, giusto? Era già chiuso al pubblico da un po' di tempo, 5-6 anni. Da 5-6 anni. Però, perché, sì, per quello che stava in qualche modo già dicendo lei, l'ho interrotta, però giusto per dare degli elementi, no, per capire. Però veniva utilizzata ogni tanto? Veniva utilizzata per le gare di Coppa del Mondo e continuerà a venire utilizzata per le gare di Coppa del Mondo, ma per le gare di Coppa del Mondo viene utilizzata nella metà più bassa. Quindi diciamo che il grave problema di quella pista è la metà alta, e come l'ho perché detto è più prima, esposta è la parte ai venti. Più esposta. Quindi questa pista continuerà a essere utilizzata per le gare di Coppa del Mondo, come è stata utilizzata praticamente il 18-19 gennaio ultimo scorso, come è stata utilizzata per le Olimpiadi. E speriamo che verrà utilizzata ancora per tanti anni. Lo speriamo anche noi, naturalmente, perché certamente non può essere utilizzata per lo sci, chiamiamolo turistico, perché soprattutto nella parte alta presenta delle caratteristiche tali da non essere possibile metterla a disposizione in termini di assoluta sicurezza. Senta, Brasso, le voglio chiedere, prima di salutarci, ci ha spiegato molto più dettagliatamente la situazione di questa storica pista del Sestriere, ma quando lei sente parlare di cambiamento climatico, da quanti anni lei gestisce questa pista? Da 15 anni. Da 15 anni. Ha visto dei cambiamenti, diciamo, in questi anni e crede alla tesi del cambiamento climatico per quanto riguarda Sestriere? Assolutamente credo, come tutti penso, alla tesi del cambiamento climatico. È chiaro che il cambiamento climatico avviene in modo lento e poi ci sono soprattutto delle zone che soffrono di più questo cambiamento climatico, le zone che lo soffrono meno. Una nevicata di 30 centimetri su un cucuzzolo esposto ai venti da tutte le direzioni rende molto meno che una nevicata di 30 centimetri su un pianoro che almeno da due parti è protetto dal vento. Quindi in un pianoro protetto dal vento una nevicata di 30 centimetri rende praticabile una pista. Su un cucuzzolo di una montagna una nevicata di 30 centimetri probabilmente non ne lascia neanche due sul terreno perché vengono portati via tutti dal vento. È stato chiarissimo. Il cambiamento climatico esiste, naturalmente ci sono delle porzioni del territorio che lo subiscono di più e altre che lo subiscono meno. È stato chiarissimo, grazie a Giovanni Brasso, presidente di Sestriere SPA, grazie per essere stato con noi. Lunga vita alla pista di Sestriere, speriamo, non lo so, che magari anche alcuni di questi, diciamo, cambiamenti climatici possano, non dico invertire la rotta, ma farsi sentire di meno e che quindi si possa recuperare, per quanto poi la questione è nella parte alta della pista, avete sentito, è relativa al vento. Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Alessio, buongiorno. 13:46 minuti, tra circa un quarto d'ora ti ritroviamo. Come hai vissuto ieri questa super match di Napoli? Beh, insomma, il Napoli esce da questa partita con dei rimpianti perché poteva addirittura essere vittoria non 1-1, che va bene al Barcellona che non ha giocato una gran partita. Con un Barcellona decimato, al ritorno ci saranno Busquets e Vidal che verranno squalificati, con Gattuso che dice ci hanno fatto il solletico. Mi sembra che il quadro, insomma, tra rimpianti e speranze per il ritorno, perché al Camp Nou con questo Barça si potrebbe addirittura fare il risultato, sia una notizia, soprattutto rispetto a quanto si pensava o temeva alla vigilia. Però oggi c'è anche la Juventus che gioca a Lione, sul campo della squadra di Garcia, vecchio nemico, ex allenatore della Roma. Confronto impari se si guardano le classifiche dei due campionati, l'andamento della stagione. Tra l'altro a Lione manca il giocatore più forte, Depay, che è infortunato di lungo corso, però è una Juventus che entra nel suo territorio di caccia privilegiato. E ci sono altri riflessi che vengono da altri campi della Champions, perché stasera c'è forse il confronto diretto più atteso a Madrid, c'è Pep Guardiola con il Manchester City contro il Real Madrid, una delle due andrà fuori, si tratta di capire chi, e lo faremo da questa sera in poi. Bene, grazie Carlo Genta, naturalmente tutto calcio e tutta Champions in queste ore. 13:48, ci fermiamo, facciamo un break, torniamo tra pochissimo. Effetto giorno. 13:48, ben ritrovati cari ascoltatori, di nuovo buongiorno Alessio Maurizi. Allora, ritorniamo sull'intervista di questa mattina, 24 mattina, della ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, perché voglio farvi sentire anche un passaggio importante, perché non soltanto la ministra ha detto non ci sarà problemi per l'anno scolastico, perché comunque in casi di forza maggiore il mancato raggiungimento del numero di giorni di scuola non è un problema, verrà bypassato. Non soltanto Azzolina ha detto che dalla settimana prossima i blocchi della didattica, cioè le scuole chiuse, potrebbero essere riorganizzate su base provinciale, quindi ogni provincia a seconda dei focolai e dei casi di contagio, però ha parlato anche della questione delle gite scolastiche, tante gite annullate fin qua, e c'è anche una buona notizia, i rimborsi, sentiamolo. I genitori verranno rimborsati. Noi nel decreto legge abbiamo citato l'articolo 41 del codice del turismo, ma ovviamente anche le agenzie hanno bisogno di una risposta, e lì noi faremo un decreto ad hoc, ne abbiamo parlato ieri in Consiglio dei Ministri con il ministro Gualtieri. Però ci tengo anche a dire un'altra cosa: noi al momento abbiamo sospeso i viaggi di istruzione fino al 15 di marzo, e io spero, mi auguro, dipende, ribadiamo, sempre da quello che ci diranno le autorità sanitarie e da come evolverà la situazione, che a partire dal 16 di marzo si possa anche ricominciare ad andare in viaggio di istruzione. Eccoci qua, 13.50, nello spazio in cui normalmente ascoltate la lettura dei giornali internazionali da parte di Giulia Crivelli, che anche oggi è assente giustificata. Chi abbiamo? Giampaolo Musumeci, che anche oggi è presente ingiustificato. Fantastico. È così perché sai che la regola del tormentone è, cioè, fa ridere quando lo dici 100 volte, sì, credo. Sì. Dubito noi che siamo qualcuno all'ascolto stia ridendo, però siamo, insomma, arrivati a che... 80, no, sì, siamo ancora all'inizio, però noi, come dire, confidiamo, sì, che arrivi, sì, sì, questo tormentone. Giampaolo Musumeci presente, eccoci, ingiustificato, a parlare di cosa? Di Nessun luogo è lontano, le anticipazioni del programma di Esteri, con tutti gli approfondimenti che non sempre segue, diciamo, le tracce della cronaca strettissima, ma le apre alcune tracce. Oggi di cosa ci parlate? Ma oggi riaccendiamo i riflettori su movimenti di protesta. Da un lato l'Algeria, perché il movimento Iraq ha compiuto un anno e qualche giorno ed è quel movimento che ha fatto decadere l'anziano presidente Bouteflika, ma continuano a scendere in piazza. Dall'altra parte andremo in Libano, dove le dimissioni del vecchio premier Hariri non sono bastate a placare la piazza. E siccome in questi mesi, in queste settimane, abbiamo spesso parlato di grandi contestazioni, movimenti di piazza che attraversavano tutto il globo, da Hong Kong fino al Cile, passando appunto per Iraq, Iran, Libano e Algeria, abbiamo trovato un filo rosso. Il filo rosso è l'arte. Ci chiederemo, cioè, quanto le espressioni artistiche, i graffiti, i DJ, la musica, i danzatori siano una formidabile molla o acceleratore per queste contestazioni dei regimi, o quanto siano semplicemente uno specchio. Quindi proveremo a rispondere a questa domanda con un po' anche di voci di artisti che si sono messi in gioco nei vari teatri. È un bel tema, riecheggia qualcosa che noi forse non abbiamo neanche vissuto, gli anni 60, gli anni 70 in Italia. Eh no, perché siamo estremamente giovani. Siamo estremamente giovani, estremissimamente. E però invece in questi paesi è molto forte questa presenza. Mi dicevi tu prima di andare in onda, no, sì, Giampaolo? Ci, sì, sono tanti segnali. Ci sono tanti segnali. Allora, innanzitutto sono popolazioni molto molto giovani. Ecco. Quindi chiaramente la componente anagrafica gioca un ruolo fondamentale. E poi in alcune situazioni c'è stata da parte dei regimi una vera e propria compressione, non soltanto dei diritti, delle libertà individuali, ma anche delle espressioni artistiche. Siano regimi, come dire, laici, che regimi di matrice religiosa islamista. Per cui in tutte queste piazze vediamo a un certo punto un'esplosione muscolare di questi giovani rapper, appunto cantanti, danzatori, che da un lato finalmente esprimono loro stessi, dall'altro danno corpo, energia e benzina, no? a queste piazze. Chissà, la domanda che ci faremo è: senza quest'arte quella piazza sarebbe efficace lo stesso? Senti, ma così, giusto per arrivare proprio a tutti, secondo te qual è il motivo di questa, per esempio in Libano, no? Di queste proteste? Cioè, c'è il discorso di Hariri e c'è, sì, sempre il discorso politico e della politica che deve raccogliere poi queste proteste, però perché? Ma allora, un filo rosso, diciamo, strettamente sociale, economico, politico, che lega queste proteste dall'Iraq al Libano, ma anche il Maghreb, l'abbiamo visto anche nel 2011, è no alla corruzione, no alle diseguaglianze economiche, no all'utilizzo, diciamo, della diversità di appartenenza, che sia essa clanica, tribale o religiosa, come strumento politico per ghettizzare, per estromettere dalla vita politica. Sono temi che sono rimasti sempre sotto la cenere in Medio Oriente per tanto tempo, ma anche nel Maghreb, sto pensando alla Libia o alla Tunisia. Quindi necessariamente ogni tanto riesplodono. Non li abbiamo visti quando c'erano dei dittatori, dei pugni di ferro che si abbattevano su queste varie istanze, queste varie dinamiche. Però nel mondo si scende in piazza alla fine per gli stessi motivi, che è andare a comprare il pane, che il pane sia per tutti e che la democrazia sia vera. Un'altra bella storia che racconterete è quella dell'autostrada della Siria, due autostrade forse. Sì, ne abbiamo accennato proprio qualche giorno fa, se non ieri addirittura. È interessante notare, allora, ci sono la M4 e la M5, sono queste due autostrade, come se fossero sostanzialmente l'autostrada del sole per noi e la Torino-Trieste. Cioè, quindi, nord, sud e est, ovest. Perfettamente. Ed è incredibile come si stia lottando da anni, ultimamente da mesi, con scontri sempre più feroci, per il controllo della rete viaria. E allora la domanda è che ci si fa, ma è incredibile come nel 2020, in un'epoca ipertecnologica in cui volano i droni, ci sono i satelliti, ancora non soltanto la vita economica di un paese, ma addirittura il destino militare di una battaglia campale sia legata all'asfalto. Quindi siamo lì, sulla strada. Sulla strada, le esattamente. Ruote, le gomme. E quindi ci sembra un paradosso interessante, no, da continuare a esplorare. Grazie Giampaolo. Giampaolo Musumeci, ti ritroviamo con Nessun Luogo naturalmente alle 16. È tutto anche per la Perfetto Giorno, scusate, c'è stato presente ingiustificato, mi ha chiuso il microfono non volendo. Ci risentiamo naturalmente domani con Effetto Giorno. Un ringraziamento ad Jacopo De Franchi in redazione, Filippo Aureggi in regia. Ci risentiamo tra l'altro tra poco nell'aggiornamento delle 14. Ciao da Alessio Maurizi, buona giornata.